Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. E allora sì, abbracciami più forte, perché pochi sanno forte. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, questa volta iniziamo così con un po' di musica, perché è la musica che ha rotto il silenzio delle città deserte, silenziose appunto di questi giorni. Alle 18 parte dell'Italia, migliaia di persone sono date appuntamento sui balconi e hanno cominciato a cantare tante canzoni, dall'inno naturalmente italiano fino a Napoli e fino a questa canzone che per l'appunto molto simbolica, Abbracciame, di Andrea Sannino. E così insomma si è sentito questo senso di comunità. E pensate davvero quanto, io credo, almeno spero, la maggior parte delle persone, questo doversi tenere forzatamente a distanza poi ci faccia sentire ancora più forte il desiderio, quando tutto questo passerà, di abbracciarci, di baciarci, di stare insieme, di stare vicini. Per il momento però non è possibile, lo sapete, l'emergenza è sempre molto forte in Italia in particolare, ma ormai diciamo l'epicentro, dice l'OMS, del coronavirus è l'Europa. Prima era l'Asia, adesso è passato l'Europa, quindi nessuno pensi di esserne al di fuori. Vi ricordo per i vostri commenti pagina Facebook di Effetto Notte, oppure SMS e WhatsApp come sempre al 349-238-6666, 349-238-6666. Parleremo di tantissime cose, della mossa che sta facendo l'Europa per sostenere l'Italia e tutti i paesi che saranno comunque coinvolti e che sono già coinvolti dal coronavirus. Molti stanno prendendo misure che noi abbiamo già preso. Poi parleremo anche dei provvedimenti che sta varando il governo. Ci sarà anche un alto funzionario della polizia che spiegherà passo passo quelle che sono le regole principali da seguire per chi ancora non le avesse capite o per chi ancora non le volesse capire. Partiamo innanzitutto con la sintesi della giornata. La dichiarazione dell'OMS: l'Europa è il nuovo epicentro della pandemia di coronavirus. Ogni paese che guarda all'esperienza di altri paesi, dice il direttore generale, alle prese con epidemie importanti e pensa che a noi non succederà, sta commettendo un errore mortale. Può succedere a chiunque. Intanto in Italia crescono i contagi, ma anche coloro che guariscono, 1266 le vittime. La decisione dell'Unione Europea: la presidente della Commissione Ursula von der Leyen va incontro all'Italia e assicura massima flessibilità. Anche la Banca Centrale Europea adesso corregge la rotta e dice pronti a fare di più. In arrivo i provvedimenti del governo, quasi 4 miliardi per famiglie e imprese col nuovo decreto, slitta la scadenza fiscale del 16 marzo. Il coronavirus nel mondo, Trump dichiara lo stato d'emergenza, lo stesso fa la Spagna, chiudono le scuole in Svizzera e in parte della Germania, la Grecia chiude bar, negozi e acropoli, la Danimarca chiude le frontiere a tutti gli stati e lo stesso fa Cipro. Sport: verso lo stop degli eventi sportivi, anche il Giro d'Italia partirà più tardi. Partiamo quindi dalle dichiarazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha detto l'Europa è il nuovo epicentro della pandemia di coronavirus. Ogni paese, ha detto il direttore generale dell'OMS, che guarda l'esperienza di altri paesi alle prese con epidemie importanti e pensa che a noi non succederà, sta commettendo un errore mortale. Può succedere a chiunque. Per quanto riguarda i casi in Italia, il nuovo bilancio del commissario Borrelli certifica che sono 14.955 i malati di coronavirus nel nostro paese, 2.116 in più di ieri, sono 1.439 le persone guarite, 181 in più di ieri e 1.266 i morti. Dall'inizio dell'epidemia sono 1.439 le persone guarite dal coronavirus in Italia, 181 nelle ultime 24 ore, 250 invece le nuove vittime, il cui numero complessivo sale a quota 1.266. I malati sono 14.955, oltre 2.100 in più rispetto a giovedì, ha fatto sapere il commissario Borrelli illustrando il consueto bollettino della Protezione Civile. 6.201 sono in isolamento domiciliare, 1.328 sono in terapia intensiva e sempre il 10% del totale delle persone affette da coronavirus. Dalla Cina nel frattempo sono arrivati a Roma un'equipe di medici specializzati sul coronavirus e 31 tonnellate di aiuti medico-sanitari, fra i quali 30 set di apparecchiature per le unità di terapia intensiva. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Mentre nell'ex zona rossa del Basso Lodigiano il contagio rallenta, segno che le misure di restrizione danno risultati positivi, è ancora alto l'allarme nel resto della Lombardia per la tendenza dei ricoveri in terapia intensiva. E c'è una cosa piuttosto grave, sottolineata in conferenza stampa oggi dal presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Brusaferro. È verosimile che possiamo aspettarci dei casi questo weekend. E una parte di questi casi è legata ad alcuni comportamenti che abbiamo assunto negli scorsi weekend. Ricordiamoci che la durata media dell'incubazione è tra 4 e 7 giorni. Quindi anche le immagini che molti di voi, giornali, televisione, media hanno riportato di folle, quelli sono luoghi dove probabilmente il virus ha circolato. E probabilmente una parte di queste persone nei prossimi giorni avrà della sintomatologia e potrà risultare positiva. Vedremo le curve, è un'ipotesi, speriamo di essere smentiti dai fatti. E ricordiamo che l'imbecillità non è un diritto per coloro che pensano di essere furbi. E dopo la bufera di ieri sui mercati, che ha fatto segnare record negativi che non si vedevano dagli anni Ottanta, dall'Europa è arrivato oggi il pieno sostegno agli sforzi del nostro paese contro il coronavirus. Massima flessibilità allora da parte della Presidente della Commissione Europea von der Leyen all'Italia nell'applicazione del patto di stabilità. Sale da 25 a 37 miliardi la portata dell'iniziativa europea per rispondere alla crisi del coronavirus. The serious disturbance to the Italian economy created by the coronavirus will lead the Commission to authorize wide ranges of state aid measures to remedy this situation. L'Unione Europea è pronta a concedere il massimo della flessibilità all'Italia per affrontare l'emergenza economica causata dal coronavirus, lo ha dichiarato la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, assicurando che l'Italia verrà sostenuta in tutto quello di cui ha bisogno e in tutto quello che chiederà. Il prossimo potrebbe essere un altro Stato membro, ha aggiunto von der Leyen. La Commissione è pronta a dare il via libera agli aiuti di Stato anche in 24 ore, ha garantito la commissaria alla concorrenza Margrethe Vestager. Stesso messaggio di flessibilità dal vicepresidente della Commissione UE, Valdis Dombrovskis, e dal commissario agli affari economici Paolo Gentiloni. Ogni misura una tantum sulla spesa decisa in risposta alla pandemia sarà esclusa dal computo del deficit strutturale, hanno scritto in una lettera al ministro dell'Economia Roberto Gualtieri. Dell'intervento della BCE, da molti giudicato insufficiente, ha parlato in un'intervista a Bloomberg il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco. Well, first of all, it has to be clear that this has not been the final word. Le decisioni prese fin qui dalla Banca Centrale Europea non rappresentano l'ultima parola. La BCE, se necessario, agirà ancora, comprando sia titoli di Stato sia titoli privati, ha chiarito Visco, che fa parte del Consiglio dei governatori della BCE. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Sono state chiarite quindi le comprensioni di ieri in sede europea, soprattutto sul fronte della Banca Centrale Europea. I mercati oggi hanno risposto positivamente. Le borse europee resistono almeno per un giorno al panico da coronavirus e recuperano in minima parte le perdite delle scorse sedute. In campo, per sostenere i listini, sono scesi tutti i pesi massimi del vecchio continente, dalla BCE, che ha corretto il tiro sull'Italia, fino alla Commissione UE, pronta a sospendere i paletti del patto di stabilità. Ma il soccorso non è riuscito a compensare i timori legati a una diffusione sempre più aggressiva del virus, tanto che la ripresa dei listini si è sgonfiata nel finale. Stavolta però fa eccezione Piazza Affari, la migliore, che chiude con un rialzo del 7,1% e lo spread giù a 239 punti. Sul listino principale tutti i titoli in positivo, molti con rimbalzi a doppia cifra, come Biper più 22,4%, Recordati più 18,7%, Era e Banco BPM. Il rialzo infine Leonardo più 5,7%, che registra la reazione positiva degli investitori ai conti del 2019. Enrico Miele da Radio Cor per Radio 24, Il Sole 24 Ore. E dal governo italiano intanto in arrivo forse già domani un nuovo decreto per aiutare imprese e famiglie. La scadenza fiscale del 16 marzo sarà spostata. Nella bozza di decreto legge in fase di definizione confluiscono decine di specifiche misure per aiutare gli italiani e l'economia. Incentivi alle imprese per produrre mascherine, proroga alla validità dei documenti in scadenza, fondi per gli straordinari delle forze dell'ordine, accesso rapido alla professione medica senza esame di abilitazione e possibilità per la protezione civile di requisire alberghi e strumenti medicali. Allo studio anche il rinvio di elezioni comunali e regionali. Il cuore del decreto legge comunque, che dovrebbe mettere a disposizione 15 miliardi di euro sul totale di 25 autorizzati dal Parlamento, restano gli indennizi per lavoratori, imprese e famiglie colpiti dalla crisi. Ci saranno 5 miliardi di euro di cassa integrazione per salvare i posti di lavoro nelle imprese anche sotto i 5 dipendenti ferme o colpite, e indennizi ai professionisti da 500 euro al mese. Ci saranno 3,8 miliardi di euro di garanzia alle banche per rinviare i mutui a famiglie e imprese e fondi per concedere liquidità alle imprese. Poi sospensione di scadenze fiscali, rinvio per le cartelle di pagamento, rinvii e riduzioni per le bollette. E infine gli annunciati aiuti alle famiglie con figli minori, disabili e anziani da assistere. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Poi ci torneremo naturalmente anche su questi aspetti. Intanto c'è la massima collaborazione da Palazzo Chigi anche per il mondo delle fabbriche. Garantire la massima sicurezza ai lavoratori che in questi giorni sono in prima linea e sono le colonne portanti del paese, lo dice il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che incontra in videoconferenza imprese e sindacati e si impegna a intervenire in tempi brevi. Per fare questo allora noi abbiamo detto garantiremo, lo Stato garantirà attraverso la protezione civile la distribuzione gratuita di dispositivi di protezione individuale. La promessa arriva dopo gli scioperi spontanei di ieri in molte fabbriche, dove i lavoratori richiedono di applicare le disposizioni dei decreti contro la diffusione del coronavirus. Governo e parti sociali sono ora al lavoro per stilare un protocollo sulle misure di sicurezza dei lavoratori da applicare nelle imprese. Le aziende, che avranno bisogno di tempo per adeguarsi a queste misure, fa sapere Palazzo Chigi, potranno sospendere o ridurre le loro attività per alcuni giorni, approfittandone per sanificare le aree. E durante la messa in sicurezza sarà consentito il ricorso agli ammortizzatori sociali. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. L'Italia sta rispondendo con grande senso civico alle restrizioni decise dal governo, i controlli però sono a tappeto, molti sono quelli denunciati per violazione dei provvedimenti e per false dichiarazioni. Di questo parleremo con un alto funzionario della polizia, ci spiegherà anche punto per punto come funzionano queste regole, questi provvedimenti restrittivi. E adesso facciamo il punto sui contagi nel resto del mondo. L'Europa è il nuovo epicentro della pandemia di coronavirus, lo certifica l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Intanto, dichiarato lo stato d'emergenza in Spagna dopo l'impennata di contagi arrivati ad oltre 4.000, le vittime sono invece salite a 120. Prime zone rosse in Austria, chiusura dei negozi non essenziali e di 47 valichi minori con l'Italia. Dopo la Francia, dove da oggi ha chiuso il Museo del Louvre fino a nuovo ordine, chiusura delle scuole anche in Germania, Algeria, Slovenia e Svizzera. In Grecia chiusi i musei e siti archeologici, inclusa l'Acropoli. Negli Stati Uniti invece è attesa la conferenza stampa di Donald Trump alle 15 ora di Washington, le 20 in Italia. Il presidente USA si appresta a dichiarare l'emergenza nazionale e intanto chiudono tutte le grandi istituzioni culturali di New York e cala il sipario su Broadway, mentre sale a 1700 il numero dei casi e le vittime sono almeno 41. La Louisiana è il primo stato americano a posticipare le primarie per la Casa Bianca. La consultazione era prevista per il 4 aprile. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E il presidente americano Trump ha dichiarato proprio poco fa lo stato di emergenza, poi ci collegheremo con gli Stati Uniti, mentre la Danimarca ha deciso di chiudere le frontiere con tutti gli altri stati e lo stesso ha fatto Cipro. Il primo caso in Cina, è emersa questa notizia, il primo caso di infezione da coronavirus non risalirebbe all'8 dicembre, come comunicato da Pechino all'OMS, ma da alcune settimane prima, il 17 novembre. La rivelazione riportata dal South China Morning Post, destinata a riscrivere la storia del contagio che da epidemia è divenuta, come sappiamo, pandemia, causando finora 5.000 morti nel mondo, fino a gettare le basi per una nuova polemica sulla tempestività e trasparenza di azione di Pechino nella crisi. Secondo il quotidiano di Hong Kong potrebbe trattarsi di un uomo, il numero zero, insomma il caso zero, di 55 anni, residente nella provincia dell'Hubei, anche se il paziente zero, quello effettivo all'origine dell'epidemia, deve ancora essere individuato. E poi adesso torniamo in Italia con la cronaca. Nonostante quello che sta succedendo, ci sono uomini con istinto sopraffattore, evidentemente assassino, che non si fermano davanti neanche a questa situazione generale. Un uomo a Beinasco, alle porte di Torino, ha sterminato la famiglia, ha ucciso il figlio di 29 anni, la moglie di 61, un ex vigile urbano, e poi si è sparato a sua volta. I viaggi di Radio 24. La scuola ai tempi del coronavirus. Abbiamo parlato nelle scorse puntate dei ragazzi più grandi, ma sono a casa da scuola anche gli alunni della primaria. Allora, come fare didattica a distanza per i più piccoli? Nella quinta puntata di questo nostro viaggio ce lo racconta Barbara Riccardi, insegnante all'Istituto Comprensivo Padre Semeria di Roma. L'ultimo giorno di scuola io non li ho potuti salutare perché ho avuto il turno di mattina, e quindi questo dispiacere di non esserci visti, detti delle cose, attraverso gli strumenti tecnologici come può essere un cellulare o un PC, sono stati da supporto e sono da supporto per ricreare e riprendere il filo della comunicazione e della relazione tra di noi. Quello che posso dire è che stiamo utilizzando il registro online, che lo stiamo utilizzando proprio come se fosse una vera e propria chat, dove la mattina ci diamo il buongiorno, chi manda foto delle torte realizzate con la nonna, chi impasta per il pranzo, impara a fare gli gnocchi. Importante è quello di riprendere appunto a riguardarci negli occhi, perché quando i bambini sono così piccoli lo sguardo, la comunicazione arriva attraverso il capirsi, attraverso gli occhi. Tutti i tuoi alunni hanno un PC o un tablet o uno smartphone per poter comunicare con te? Soltanto alcuni hanno il proprio cellulare, se no devono utilizzare il cellulare dei genitori o quello dei nonni. Il punto è che durante la giornata la maggior parte di loro sono con i nonni, e i nonni non sono così smart e tecnologici da utilizzare la piattaforma che vorremmo utilizzare, che si chiama Zoom, dove poterci vedere. Quindi c'è sempre bisogno di collegarci nel momento in cui ci sono presenti tutti i genitori. Quindi i nostri collegamenti saranno soprattutto durante le ore del pomeriggio al ritorno del lavoro da tutti, in modo tale che creiamo un gruppo inclusivo. E non possiamo tralasciare nessuno in questo momento di emergenza. Ancora musica, che piaccia o no, ma ci sono dei movimenti in vetta alla classifica degli album più venduti della settimana. Secondo le rivelazioni del FIMI GFK, nella settimana in cui l'emergenza sanitaria appunto per coronavirus ha tirato giù Saracinesca e chiuso in gran parte la popolazione in casa, in questo quadro che ha fatto registrare un più 3% sullo streaming in una settimana, è al primo posto in classifica il rapper Nitro, che state sentendo, si prende il primo posto con Garbage, suo quarto album in studio. Per chiudere lo sport, la staffetta della torcia olimpica di Tokyo 2020 si ferma in Grecia a causa della pandemia. Tutto lo sport mondiale si ritira in quarantena per i casi di atleti contagiati. Il Gran Premio di Formula 1 d'Australia non si correrà. Si fermano la Bundesliga tedesca, i campionati Ligue 1 e 2 francesi. Salta le prime tre tappe del Giro d'Italia di ciclismo dal 9 all'11 maggio. Altri 5 calciatori sono risultati positivi al coronavirus e la Sampdoria. Bene, diciamo che fin qui si chiude questa prima parte, questa sintesi della giornata, per affrontare tra pochissimo gli argomenti per lo più legati al coronavirus e tra poco con gli ospiti. E, per i vostri messaggi 349-238-6666 oppure pagina Facebook di Effetto Notte. One Express, il pallet Express vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Quante notizie, come sempre, cari ascoltatori, cari ascoltatrici, sempre Roberta Giordano con voi a raccontarvele tutte le sere. Ringrazio chi a sua volta ringrazia, grazie a me, per il fatto di essere qui tutte le sere, così come naturalmente tutta l'informazione, Radio 24 in particolare. D'altronde noi restiamo, questo è un presidio, io spero, per tutti importante, no? Naturalmente ci sono altre professioni come gli operatori sanitari, le forze dell'ordine, che in questo momento sono decisamente fondamentali, altrimenti non si andrebbe da nessuna parte, però vi assicuro che anche insomma avere questo ruolo dà una grandissima responsabilità. Intanto vedo tanti vostri messaggi sui parchi chiusi, sì, è vero, sta succedendo a Milano, Roma, su chi ancora ha dei dubbi, ma vi dicevo, tra un poco, nel corso di questa puntata, sentiremo un alto funzionario della polizia che ci spiegherà almeno le regole basilari che tutti devono seguire. Ci troviamo di fronte a una crisi globale, quindi nessun paese può considerarsi esente, indipendentemente dal numero di casi che oggi sono presenti al proprio interno. Vuol dire che l'unica modalità che abbiamo per affrontarlo con efficacia è quella di condividere i dati, condividere le esperienze, valutare le migliori esperienze, le migliori pratiche per poi riprodurle e adattarle ai diversi contesti. Insomma, lo avete sentito dal presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Brusaferro, ma ve lo avevo riferito all'inizio anche le dichiarazioni dell'OMS che ha detto l'Europa è il nuovo epicentro della pandemia di coronavirus e ancora, ha detto il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ogni paese guarda l'esperienza di altri paesi, le prese con epidemie importanti e pensa a noi non succederà, sta commettendo un errore mortale, può succedere a chiunque, appunto l'Europa. E su questo saluto il nostro vice direttore del Sole 24 Ore, Alberto Rioli. Buonasera a tutti. Ciao caro Alberto. Allora, abbiamo visto anche nella sintesi della giornata, abbiamo sentito come tutti i paesi stanno prendendo provvedimenti, forse pensavano puntando il dito verso l'Italia che fossimo gli unici, gli untori, doveva capitare solo a noi, come se avessimo una muraglia intorno, ma un virus passerebbe anche quella, e invece purtroppo tutta l'Europa sta diventando epicentro del coronavirus, quindi anche l'Europa come a livello di istituzioni sta prendendo a questo punto dei provvedimenti, forse un po' in ritardo, ma li sta prendendo. E la Presidente della Commissione europea, von der Leyen, che già in questi giorni ha lanciato un messaggio, ha registrato un messaggio, un videomessaggio in italiano per mostrare la sua solidarietà all'Italia, ha detto siamo tutti italiani, ha detto dobbiamo prendere decisioni audaci e coraggiose, ha detto oggi, a tutti i livelli, perché lo shock causato dal coronavirus non crei danni permanenti alle nostre economie. Gli Stati membri devono sentirsi liberi di adottare le misure a sostegno dei settori più colpiti e alle persone. Concederemo la massima flessibilità sul patto di stabilità e gli aiuti di Stato e sul nostro paese, ha detto, siamo assolutamente pronti ad aiutare l'Italia con tutto quello di cui ha bisogno. Alberto. Esatto, mi viene da dire che questa entità che appartiene al cosiddetto infinitamente piccolo ha scatenato nel mondo per la prima volta una reazione infinitamente grande, nel senso che è la stagione della grande svolta in Europa verso la liquidità, verso il piano di solidarietà che manda in archivio definitivamente l'ossessione dell'austerity, il 3% e tutte quelle cose che palesemente di fronte a una pandemia risultano barocche e totalmente inutilizzabili e fuori contesto ed è tutto improprie. Quindi oggi è un giorno molto importante perché da una parte l'Europa, l'Unione Europea, insomma la von der Leyen ha messo in campo una dote che ha anche aumentato rispetto a quella inizialmente prevista di 25 miliardi, sono diventati 37. Si è capito che non avranno scrupoli a destinare aiuti anche mirati a singoli paesi, si è capito che è in una sorta di congelatore anche il patto di stabilità, perché appunto le restrizioni sono state tolte, sono tolte anche le restrizioni che normalmente ci sono nella valutazione degli aiuti di Stato, quindi sostanzialmente ciascuno Stato membro potrà organizzare anche forme di aiuto diretto a settori, a parte della propria occupazione, senza più avere quel problema di incorrere nelle sanzioni, perché questo sarebbe si configurerebbe come aiuto di Stato. Nel contempo, l'altra mossa importantissima che va in questa direzione è il piano tedesco. La Merkel ha messo in campo un bazooka da 550 miliardi potenziali solamente per mantenere la liquidità al sistema imprenditoriale industriale tedesco, che non deve appunto perdere terreno e deve mantenere a pieno regime la propria capacità. Quindi capisce che cosa sta accadendo, e tra l'altro è la prima volta anche in questo caso che le politiche fiscale nel senso della nomenclatura europea, cioè vale a dire attinenti al bilancio pubblico, sia spesa sia entrata, sono coordinate con le politiche monetarie della BCE, perché anche la BCE, nonostante la strabiliante gas della Lagarde di ieri, oggi si è abbondantemente corretta e ha spiegato che la Presidente della Banca Centrale Europea, no? Ti stai riferendo? Esattamente, sì. Che ieri ha detto che non è un affare della banca, della BCE, del preoccuparsi degli ampliamenti degli spread, cioè dei differenziali di tassi di interesse tra i paesi all'interno dell'Eurozona, cosa che invece è l'ossessione del banchiere centrale che presiede l'Eurotower. E quindi ecco, si è corretta, poi ha cercato di mettere una pezza a questa gaffa. Oggi è sceso in campo il capo economista Lane della BCE, dove ha spiegato che è sicuramente prioritario il controllo delle dinamiche dei tassi di interesse sui titoli di Stato dei singoli paesi, che devono convergere e non divergere. Ignazio Visco, il governatore della Banca d'Italia, anche lui ha fatto una lunga intervista per spiegare meglio appunto qual era stata la mossa di ieri della BCE, spiegando anche che c'è una grandissima attenzione anche ai singoli stati, in questo caso si parla dell'Italia perché ha il focolaio più invasivo in questo momento, e sicuramente c'è un'attenzione della BCE anche diretta appunto all'aiuto verso un singolo Stato, cosa che prima sembrava anche questo un tabù. Quindi oggi è una giornata di grande correzione, si è capito che l'Europa sta cercando di parlare con una voce sola, mettendo in campo una quantità di interventi che davvero non ha precedenti nella storia, seppur breve, dell'Unione Europea e della Banca Centrale Europea. Quante cose cambiano, insomma. Vedremo poi nelle prossime settimane, man mano, il concretizzarsi di queste misure, speriamo il prima possibile. Grazie intanto Alberto Rioli, buon lavoro, vice direttore del Sole 24 Ore. Un abbraccio, posso dartelo, esatto. Così, giusto? Certo, ricambio. Grazie, ciao Alberto. E intanto il governo italiano, come sapete, ha deciso di mettere in campo 25 miliardi e di varare nel fine settimana una manovra tra i 12 e i 16 miliardi. E qui saluto la nostra Barbara Fiammeri, commentatrice politica del Sole 24 Ore. Ciao Barbara. Buonasera a tutti. Tra l'altro, sempre per affrontare l'emergenza coronavirus, tra le nuove misure che il governo sta mettendo a punto e sono contenute nella bozza del decreto, sono girate alcune anticipazioni di questa bozza in elaborazione, ci sarebbero più fondi, 58 milioni per le forze dell'ordine, 4.000 agenti in più, 10 milioni per ripristinare la piena funzionalità nelle carceri dopo le rivolte dei giorni scorsi, nuove norme per i caregiver familiari, per chi si prende cura all'interno delle famiglie, lavoro agile, tutele per i lavoratori con figli disabili, l'estensione della legge 104 dei congedi straordinari, la proroga dell'ultima sessione di laurea dell'anno accademico 2018-2019 al 30 giugno 2020, l'abolizione, questo tutto nella bozza, ancora nulla di ufficiale, dell'esame di abilitazione alla professione medica e poi la possibilità che la revisione auto slitti di 3 mesi, la possibilità di prorogare al 31 agosto la validità dei documenti di identità, un sacco di robe e di cose in Barbara in questo... Sì. Beh, è chiaro che qui da un lato è necessario provvedere a tutta una serie di semplificazioni e di proroghe, no? Appunto come quello del pagamento di scadenze fiscali che addirittura marzo potrebbero essere azzerate e anche o ad esempio banalmente a chi gli è scaduta la patente piuttosto che il passaporto. O la revisione dell'auto, appunto. O la revisione dell'auto. Quindi chiaramente si sta provvedendo a far sì che tutto possa slittare più in là quando speriamo che le cose vadano meglio e l'emergenza rientri. Allo stesso tempo saranno prese alcune delle misure necessarie per tamponare, anche qui uso questo termine, tamponare, perché questo provvedimento è il primo provvedimento che mette a disposizione tante risorse, appunto come tu facevi cenno poco fa, però è il primo, ce ne saranno sicuramente altre, perché il livello della crisi che sta provocando il coronavirus è talmente alto che sicuramente i 25 miliardi che sono stati stanziati a copertura di eventuali misure che saranno prese nel prossimo weekend, forse non per tutti i 25 miliardi, anzi sicuramente non per tutti i 25 miliardi, però non saranno comunque sufficienti. Per adesso si prevede appunto un'estensione degli ammortizzatori sociali, cioè consentire anche a piccole aziende di poter utilizzare la cassa integrazione, questo sia per evitare alle aziende di chiudere i battenti e sia ai lavoratori di rimanere senza studenti. Infatti questo a proposito sostegno di quello che, scusami Barbara, si diceva ieri, no? Che c'erano state le prime proteste di lavoratori, operai, di imprese, di industrie che dicevano noi minacciamo lo sciopero, qualcuno ha anche proprio concretamente scioperato perché vogliamo che si fermi tutta la produzione, non vogliamo essere di serie B, però dall'altra parte il governo ha assicurato che verranno garantite i protocolli di sicurezza in tutte le imprese e le fabbriche. Come dicevi tu, hanno oggi in questa videoconferenza, l'incontro tra Conte e le parti sociali, è stato stabilito che le aziende si devono adeguare alle misure di sicurezza e se non ci riescono in tempi brevi si possono ridurre o addirittura sospendere l'attività, naturalmente godendo di ammortizzatori sociali. Sì. Sì, appunto. Poi lì andrà un'altra cosa che Conte ha detto, è che va valutato anche area per area, cioè l'area di Sondrio non è l'area di Bergamo, ad esempio, piuttosto che a Codogno abbiamo visto che la situazione sta migliorando significativamente, quindi probabilmente alcuni interventi più radicali vanno presi in alcune aree e meno in altre. C'è il problema di garantire comunque, come dire, quelli che sono i beni essenziali. Faccio un esempio banale, certo. Tutta la catena del catering, no? Cioè, il catering serve anche per per mandare i prodotti che noi compriamo al supermercato. Cioè, il formaggio è chiuso in una confezione, quella confezione qualcuno la deve produrre, perché se non c'è quella confezione neanche il formaggio arriva al supermercato. Quindi quando noi diciamo la catena dell'agroalimentare, uno pensa soltanto, come dire, al cibo, no? ma in realtà comprende molto, è una catena molto più grande, molto più ampia. Quindi c'è una difficoltà oggettiva poi a dire, cioè a realizzare il chiudiamo tutto, oltre al danno economico che può arrivare e che comunque arriverà, c'è anche proprio la sussistenza, cioè, quindi chiaramente è un equilibrio molto molto complesso, infatti è molto complicato. È una lotta, questa è una guerra in cui diciamo è una guerra contro il tempo. Un nemico che non riusciamo a vedere, che è invisibile, che non capiamo neanche bene che strada sta prendendo. Cioè Roberta, diciamo anche che la prossima settimana sappiamo che è una settimana chiave. Certo, cruciale, perché, importante. È una settimana chiave, ma non lo dico in senso, come dire, ottimistico e benaugurante, purtroppo. No, ancora. Che si può capire in un senso o nell'altro se come ce la facciamo, insomma. Beh, il primo interrogativo, la prima risposta sarà se i 40.000 che da nord sono andati a sud tra studenti, trasportatori, lavoratori, docenti, eccetera. Sì, che sono rientrati hanno portato il virus oppure no, perché saranno trascorsi la notte tra sabato e domenica e i giorni immediatamente successivi che c'è stata questa grande contromigrazione verso sud, e a questo punto saranno trascorsi quei 10 giorni che potrebbero far manifestare il virus laddove fino adesso è stato contenuto. Sarà una delle principali, come dire, lenti di ingrandimento sulla settimana che verrà. E anche Brusaferro, ho fatto sentire prima il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, che ha detto in questo fine settimana avremo un aumento di casi al centro-sud per comportamenti errati, non solo di quelli che citavi tu, ma anche di chi è andato al mare, sulle spiagge, in montagna, insomma così. Proprio io non lo so veramente che cosa hanno o non hanno nella testa. Ma perché è la stessa cosa, scusa Roberta, è la stessa cosa che abbiamo fatto noi. Cioè noi rispetto quando guardavamo Wuhan, quando vedevamo quello che stava accadendo in Cina, è vero, lo guardavamo come increduli. Italia, è vero, però quando tu sai che quello che sta succedendo, quando si parla tutti ma i giorni delle terapie... Ma lo sapevano i Lombardi, lo sapevano i Lodigiani, già a Milano, tu lavori come me al Sole 24 Ore, io lavoro a Roma, però anche parlando con i colleghi, i primi giorni, quando era nel Lodigiano, i miei colleghi di Milano dicevano ma sì, vabbè, ma è vedrai, vero. Tanto l'avremo già preso tutti, cioè, ma io stessa. Ma perché man mano, Barbara, però, adesso penso che sia inequivocabile, man mano i virologi, anche qui effetto noto, ho avuto tante volte ospiti vari virologi, tutti, man mano però. Sì, man mano, ma loro stessi, alla fine, diciamo all'inizio qualcuno diceva che era un po' poco più di un'influenza, e perché tutti abbiamo navigato a vista, gli stessi esperti, quindi figuriamoci noi, ma da un certo punto in poi è stato chiaro che qui le terapie intensive, gli ospedali traboccano, ne possono più, il personale sanitario è logorato, insomma, quindi a questo punto nessuno può più trovare delle scuse. Barbara, siccome oggi alle 18 molti hanno cantato fuori dal balcone, io stavo lavorando, non è stato possibile, tu però hai cantato qualcosa, vuoi cantare qualcosa, Barbara? Eh? Non ti vergognare. Questa è una sfida, diciamo uniamoci a corte tutti insieme. Sì. Sì? Vabbè. Ah, devo proprio cantare. Per forza, Barbara, che se no cantare è un verbo chiaro. Fratelli d'Italia, l'Italia se destra dell'elmo di Scipio, se cinta la testa. È intonatissima, la sai tutta, facciamo finta che la sai tutta. Grazie cara Barbara Fiammeri, un abbraccio fortissimo. Almeno a parole si può dire, ma anche col sentimento. Grazie. Ciao Barbara. Grazie. Ciao Barbara. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Allora, il governo, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, ve l'ho raccontato man mano in questi giorni con effetto notte, ha varato misure sempre più restrittive, no, per contenere l'epidemia in Italia di coronavirus. Però capisco che essendo ancora all'inizio, essendo appena entrate in vigore, diciamo così, non siano chiare proprio a tutti, però un concetto fondamentale che deve passare, che deve essere passato dal primo giorno, è quello di restate a casa, io resto a casa, la campagna del governo. E a fine giornata, soprattutto stando a casa, ascoltate Effetto Notte, che sono qui apposta per voi a raccontarvi tutto quello che è importante sapere rispetto a ciò che succede giorno per giorno, e in modo, come dico sempre io, che un giorno non potrete dire io questa non la sapevo a proposito di una notizia importante. Allora, l'ho detto e ho letto diverse volte in questi giorni i vostri messaggi, le vostre mail in diretta, mi chiedete, insomma, ci sono tanti dubbi legittimi, no? Posso andare a correre? Io ho detto che vado a correre a un parco aperto con chilometri di distanza da me quando vedo altre persone, quindi sono questi grandi parchi, naturalmente si può andare. Mi si chiede: posso andare in bicicletta? Posso andare a trovare mia madre che è da sola, mio padre che è da solo a qualche chilometro di distanza? Come faccio ad avere l'autocertificazione e come faccio anche ad averla? Cosa devo scrivere? Insomma, bene, per rispondere a tutti questi vostri, appunto, legittimi dubbi, chiedo il prezioso intervento del dottor Girolamo Laquaniti, che è portavoce dell'Associazione Nazionale Funzionari di Polizia. Dottor Laquaniti, buonasera. Buonasera a lei, buonasera a tutti gli ascoltatori. Quindi, proprio perché gli ascoltatori di Effetto Notte non possano mai dire io questa non la sapevo, quali sono intanto proprio le regole più stringenti, fondamentali, che tutti in modo assoluto devono rispettare, dottor Laquaniti? Il suo incipit è stato eccezionale. La regola generale è quella di stare a casa. Ci sono delle eccezioni, ma queste eccezioni sono legate a un principio di stretta necessità. Cioè sono le eccezioni legate ai bisogni minimali per garantire una minima qualità della vita. Come credo tutti sappiano, è consentito andare al lavoro, come tutti sanno è consentito andare a fare la spesa, così come acquistare medicinali, in generale quelle operazioni necessarie per la nostra salute. E poi il termine che è più difficile forse da comprendere è quello che giuridicamente è ricompreso nello stato di necessità, cioè quelle azioni, quelle attività necessarie a garantire uno standard minimo di vita. Quindi sicuramente le ha detto benissimo: posso andare a fare attività fisica, attività motoria, dice il decreto. La cosa importante, aggiungo io, che questa attività venga fatta non in forma aggregata, cioè dobbiamo sempre mantenere le distanze necessarie. Benissimo che i nostri figli possano prendere una sana boccata d'aria, purtroppo però non possono giocare in un parco pubblico insieme a stretto contatto, così come le mamme non possono stare sedute insieme sulla stessa panchina a distanza ravvicinata, perché questo ha portato molti comuni, a quanto mi risulta, a dover chiudere molti parchi comunali proprio perché non venivano rispettate queste minime cautele. È di oggi proprio l'ordinanza, mi perdoni dottor Laquaniti, del sindaco Sala di Milano, e Roma anche va verso queste ordinanze per quanto riguarda i parchi recintati, almeno. Esatto, lo stesso per esempio è avvenuto a Verona, così come sentendo tanti colleghi è avvenuto in gran parte d'Italia. Andare a trovare parenti ed amici solo se hanno necessità di un aiuto. Non è purtroppo il momento di fare visite di piacere, non è il momento di ricevere ospiti a casa, quindi le visite a familiari e amici sono consentite solo laddove è necessario dare assistenza a chi ha scarsa mobilità. Penso per esempio a un figlio che ha la necessità di portare la spesa ai propri genitori perché magari non sono in grado di sostenere il peso delle buste con la spesa dentro. Per esempio andare in bicicletta, dottor Laquaniti, tanti dicono: ma io mi posso prendere la bici e andarmi a fare un giro per la città o insomma in zone... Allora, è considerata attività motoria anche la bicicletta, il problema è quando troviamo gruppi di ciclisti aggregati, abbiamo avuto un caso in cui sono stati denunciati, ripeto, l'attività motoria è espressamente indicata nel decreto, c'è stata anche una circolare interpretativa del Ministero dell'Interno, l'importante è che sia svolta non in forma aggregata, una corsa è consentita, non è consentito organizzare partite di calcio perché lì chiaramente le distanze non possono essere rispettate. Quindi il principio fondamentale è la distanza gli uni dagli altri. Se per esempio va una coppia di partner o di amiche o di amici al parco o portando il cane, ecco, in questo caso quando si è in due anche lì basta mantenere una distanza di un metro e mezzo e camminare tranquillamente? Esatto, io consiglio un paio di metri, così non dovremmo misurare col centimetro. Basta dimostrare di aver compreso che non possiamo stare uniti gli uni agli altri. perché ripeto, il legislatore è stato costretto in qualche modo a dare delle restrizioni ancora più forti rispetto al primo decreto. Usiamo responsabilmente queste possibilità che ci vengono date per il nostro benessere psicofisico. Non è un gioco a trovare l'inganno nella legge, non è il momento del cavillo giuridico, secondo me, è il momento della responsabilità. La responsabilità ci obbliga a mantenere le distanze, questo è l'aspetto fondamentale. Chiarissimo. Un altro aspetto, sì, su cui vorrei essere molto chiaro, ci rendiamo conto che molte persone possono essere in difficoltà nel compilare un'autocertificazione, nel fare un'autocertificazione. Tutte le forze dell'ordine, quindi non solo noi della Polizia di Stato, ma anche tutti gli altri colleghi delle forze di polizia statali e locali, hanno dei modelli di autocertificazione che quindi saranno compilati dai soggetti sottoposti a controllo insieme all'operatore delle forze dell'ordine. Attenzione su una cosa, stiamo compilando un atto destinato a un pubblico ufficiale. Se mentiamo, se diciamo qualcosa di non vero, il rischio è di una denuncia penale per le false attestazioni, sia che riguardino la propria identità, nome, cognome, luogo e data di nascita, sia i motivi legittimi che riguardano lo spostamento. Chiaro, dottor Laquaniti, quindi in caso di trasgressioni, di inosservanze di questi provvedimenti, non è sadismo da parte dell'autorità, ma è per il bene di tutti, della collettività. Su questo siamo stati chiarissimi, mi sembra. Su questo il capo della polizia ha proprio dato una direttiva che stanno seguendo tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato, cioè unire il rigore del rispetto della legge all'umanità e alla comprensione. Ecco perché siamo pronti nel momento del controllo ad aiutare chi non ha l'autocertificazione, che è consigliata per un motivo molto semplice, per rendere il controllo più snello, più agile, più facile. Ecco perché il consiglio per chi quotidianamente deve andare al lavoro, avere sempre con sé l'autocertificazione che dice dove si lavora, in quale azienda, ditta o ente e con quale turno di lavoro. Chiarissimo, grazie dottor Girolamo Laquaniti, è stato inequivocabile, esauriente, grazie e buon lavoro allora. Grazie a lei, buon lavoro anche a voi, perché se avete bisogno di informazioni prendetela sempre e solo da soggetti capaci di dare informazioni veritiere. Grazie, grazie a voi, grazie a lei, grazie dottor Laquaniti. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Bene, avete sentito, cara ascoltatrice, cara ascoltatore, allora il dottor Laquaniti, quindi di prendere anche le notizie solo da informazione certificata, qual è qua a Radio 24, qui a Effetto Notte, e così ho risposto insieme al funzionario di polizia anche a tante domande, quella di Gianpietro, quella di Flavio, di Francesca, che ancora chiedevano sulla possibilità di camminare fuori nel parco, di fare sport, eccetera, eccetera. Speriamo, insomma, a questo punto che la chiarezza sia stata fatta. Poi chiedeva intanto un ascoltatore anche di dare notizia di Wall Street, che vola, e lo Standard & Poor's 500 con un balzo del 9,2% mette a segno l'aumento maggiore dall'ottobre 2008, e quindi cogliamo l'occasione per collegarci proprio con gli Stati Uniti con Riccardo Barla. Ma ciao Riccardo. Buonasera a tutti. Buonasera. Allora, dopo aver rassicurato sino a poche ore fa Trump che c'erano pochi morti, prima 32 poi 40 negli Stati Uniti, noi siamo stati bravi, diceva, prima diceva che l'OMS aveva dato dei falsi dati, e poi ha anche detto è un complotto contro di me, e poi ancora abbiamo chiuso i confini, per questo noi siamo messi bene, ma mi pare che i confini li ha chiusi da ieri con i voli da e per l'Europa. Adesso invece ha dichiarato lo stato d'emergenza, Riccardo? Sì, ha dichiarato appena adesso una conferenza stampa fuori dalla Casa Bianca, al Giardino delle Rose, l'emergenza nazionale per il coronavirus, una decisione che apre le porte a una legislazione speciale che è prevista da una legge dell'88 che si chiama Stafford Act, che è la legge sulle calamità naturali. La prima cosa è che lui può, diciamo, l'agenzia federale delle emergenze potrà subito stanziare finanziamenti agli stati e alle città, si potranno finalmente organizzare dei team di supporto e rendere accessibili i test alla popolazione, che non ci sono ancora. E Trump ha parlato di 50 miliardi disponibili da subito, e la borsa ha fatto un balzo appena subito dopo le sue parole, è saltata in un secondo dopo del 5%, adesso il 9% addirittura. E l'altra notizia di oggi è che Trump ha parlato al telefono col presidente francese Macron sulla pandemia e si è detto d'accordo a organizzare lunedì prossimo un G7 straordinario in videoconferenza con i leader mondiali. È una cosa importante perché finora ognuno ha fatto, come dire, è andato avanti da solo. Sì. Esatto, e prima l'America, prima il Brasile, prima l'Italia, finalmente hanno capito che forse è meglio in un mondo globalizzato e con i virus, esatto, anche globalizzati, gli sforzi, certo, esatto, proprio così, sui trattamenti, la ricerca di un vaccino e rispondere anche alle conseguenze economiche che questa pandemia avrà in tutto il mondo, insomma, in qualche modo. La cosa negli Stati Uniti è accelerata nelle ultime ore e c'è stato anche un episodio oggi che ha fatto un pochino, ha tenuto tutti in fibrillazione prima di questa dichiarazione di emergenza, perché il presidente brasiliano Jair Bolsonaro, il caso Bolsonaro, è un amico stretto di Trump, e sabato scorso ha avuto un vertice informale con Trump nella sua residenza in Florida, a Mar-a-Lago, e ieri il suo addetto stampa ha detto di essere positivo al test del coronavirus. Oggi Bolsonaro ha fatto una diretta abbastanza, come dire, drammatica su Facebook, dove ha detto che è apparso con la mascherina. Come il Però ha detto che non è positivo il coronavirus. Ha detto, giusto, che non è positivo. Subito dopo i media brasiliani e anche la Fox, che è vicina alla Casa Bianca, Fox News ha detto che in realtà lo è positivo. Adesso poi lui ha smentito di nuovo, e quindi non si sa, quando insomma, la cosa non è confermata. Però Trump dovrebbe fare il tampone. Fino a poco fa vedevo che diceva di no, adesso sì, perché, invece... Sì. Perché questa famosa cena c'era un sacco di persone che sono in quarantena, e c'era anche la figlia di Trump che ha incontrato, secondo quello che dice oggi il New York Times, un funzionario australiano nei suoi giri che fa come consulente presidenziale, e questo dirigente del governo australiano è positivo al test. C'erano anche due senatori repubblicani che si sono messi in autoquarantena. Insomma, questo vertice informale adesso criticano l'organizzazione, che non è passata dai canali diplomatici ma è passata da amici di Trump che sono amici del leader brasiliano. E Trump, anche il vicepresidente Mike Pence sono stati esposti. Pence, che è il capo della task force governativa che deve coordinare la risposta del governo al virus, e sono stati vicini a persone che sono malate. Insomma, la cosa può capitare, ma come dire, se ci sono tutte gli stay in mare, il cerimoniale, tutte le precauzioni che devono esserci in questo periodo, magari si possono evitare anche rischi per il presidente della prima potenza mondiale. Chiaro, chiarissimo. Insomma, comunque adesso sembra che si renda un pochino più conto anche Johnson, poco fa primo ministro britannico, anche lì si dice che la Gran Bretagna l'ha preso molto sotto gamba questa epidemia, ha detto deve essere un intervento globale, un'azione globale, lo ha detto anche a Conte, e poco fa ho visto che Donald Trump ha parlato anche con il nostro presidente del Consiglio, ha detto siamo in contatto con l'Italia, un paese che noi amiamo, lavoriamo con loro, hanno una situazione difficile, però sappia Trump che purtroppo l'avranno anche gli Stati Uniti, se intanto perché si sono mossi in ritardo, speriamo naturalmente che non accada quello che si potrebbe immaginare. E poi anche sulla sanità, Riccardo, già quando tu all'inizio, quando ancora non se ne parlava negli Stati Uniti, che hai detto che quando dicevi che sei italiano ti guardavano storto, io ti dicevo ma lo sanno noi che abbiamo un sistema sanitario ben diverso da loro, però adesso pare che i tamponi dovrebbero farli gratis, non so se me l'hai già detto. Guarda, Riccardo, mi sono distratta mentre guardavo le agenzie. No, è così, io da expat, diciamo da espatriato qui negli Stati Uniti, oggi diciamo finalmente penso che se dovessi davvero ammalarmi c'è qualche speranza che possa fare il test e che possa essere curato. Fino a ieri non avevo questa speranza, avevo molti timori perché appunto il sistema sanitario americano è quello che sappiamo, o hai i soldi o non ti curano. Vabbè, esatto. Siamo più tranquilli per te, insomma, allora, mi raccomando, ma tu non ti ammalare. Per tutti direi, non solo per me, per tutti i 330 milioni di americani e spero presto anche per gli italiani. Evviva. Grazie Riccardo Barla, dagli Stati Uniti. A voi. Ciao, buona Riccardo. A tutti. Allora sì, abbracciami. È un abbraccio forte naturalmente anche a Riccardo Barlam, come inevitabilmente lo si deve dare, stritolandolo al nostro Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Paolo! Buonasera Roberta, e questa volta parliamo di un fine settimana che non ci spingerà troppo a uscire. Quindi spero sempre nel sole e nel caldo, e se dobbiamo guardare fuori dalla finestra è meglio che piova, diciamo la verità. Esatto. Allora, in effetti il tempo cambia in Italia, davvero da questo punto di vista ci dà una mano. Domani al centro-nord arrivano nuvole e piogge, prima nelle regioni settentrionali, poi si spostano anche verso il centro Italia e calano le temperature al centro nord. Davvero giornata molto frizzantina quella di domani, quindi su sera non ci muoviamo da casa. Al sud però domani, insomma, la tentazione ci sarà perché lì il tempo sarà ancora bello e con clima mite. Poi invece al sud ma non vi fate tentare, niente brava, tentazioni, brava, sì. E domenica comunque anche al sud arrivano pure lì le nuvole, le piogge, il calo delle temperature, arriverà anche un po' di vento, mentre è vero che migliora un po' il tempo al centro nord, però con temperature appunto più frizzantine. E comunque sia, ripeto, semmai apriamo la finestra e andiamo sul balcone, è più che sufficiente in questo periodo, mi raccomando. E si può cantare per esempio qualcos'altro, sì. Sentiamo, sentiamo cosa si può cantare. Vediamo. Quando chiove di Pino Daniele, che meraviglia. Una poesia. Possiamo chiudere in maniera migliore, bravi. E allora lasciamoci con questa poesia con il nostro Paolo Corazzon. Buon tempo a te comunque sia, anche se piove. Ciao caro Paolo. Grazie, buon tempo a tutti, ciao ciao. E aspetta che piova, l'acqua tempo ne va. E speriamo che quest'area cambi. Ci sentiamo alle 22.